In scena la rubrica del Breakfast Club di Radio Città Fujiko, seppur affaticati ma felici, siamo con Alessandro Amato. E perché siamo qui? Siamo qui per presentare la seconda parte della settima edizione della stagione teatrale Agorà. Una stagione che quindi ha avuto una precedente parte importante. Due parole, com'è andata? È andata bene anche questa ancora nuova ripartenza. Infatti, ne abbiamo avute tante ormai di ripartenze. È andata molto bene, siamo contenti perché abbiamo presentato una stagione, la prima parte, molto molto densa, con 13 appuntamenti, e il pubblico si è rinnovato e ci ha seguito. Abbiamo concluso la stagione il 30 dicembre e adesso siamo pronti a ripartire con un progetto in parte, diciamo, nuovo, un nuovo rinnovamento del progetto di Agorà. Ha dei fili conduttori? Questo nuovo progetto in realtà muta proprio nella sua forma. Agorà ha fatto un invito ad alcuni artisti che hanno frequentato la stagione negli anni, partendo proprio dal suo nome, Agorà come piazza. Come piazza. E quindi gli artisti che hanno attraversato in questi anni questa piazza, ad alcuni di loro abbiamo posto un invito di pensare a qualche dedica per la stagione. Quindi nel futuro nasceranno dei progetti speciali. Gli artisti che abbiamo invitato in questa prima fase, perché speriamo che poi l'invito funzioni un po' a catena, sono la Piccola Compagnia d'Ammacco, Il Sotterraneo, Iomini, Chiara Lagani, Enzo Vetrano e Stefano Randisi e Francesca Pennini, che quindi ci accompagneranno nel futuro delle prossime stagioni di Agorà con delle dediche speciali. Beh, questa è una cosa molto bella, anche perché io seguo Agorà praticamente, si può dire, con il Breakfast Club dalla sua nascita e ne sono molto affezionato. Non è un aspetto solamente emotivo, ma anche di grande qualità, e anche dal punto di vista territoriale. Non mi stancherò mai di dire dell'importanza di un teatro nei territori di provincia, soprattutto verso la nostra bellissima quanto sottovalutata pianura. Si confermano le piazze? A proposito di Agorà. sì, si confermano le piazze. Inoltre aggiungo un'altra specifica, perché il gruppo da un lato si è rinnovato con questo gruppo di artisti che ci accompagnano nei progetti speciali, e anche affiancheranno la stagione una serie di sguardi che sono legati ad Agorà, che sono Anna Madori, che curerà in particolare i progetti di formazione, Nicola Borghesi, Lorenzo Donati e Rosalba Ruggeri, che insieme agli artisti e a me cureranno questi progetti speciali, che saranno appunto delle dediche, perché ancora non hanno preso forma. Che non puoi svelare neanche. Ma qualcuno ne avremo, alcuni partiranno già in questa stagione, perché una dedica sarà quella di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, che il 27 maggio, quindi in chiusura di stagione, hanno deciso di costruire un appuntamento speciale dedicato a Leo De Bernardinis, con cui loro hanno lavorato, e quindi proporranno una giornata a Villa Salina di Castelmaggiore, un pomeriggio con gli artisti che avevano partecipato al Totò Principe di Danimarca, una delle produzioni di Leo De Bernardinis, che era stata poi ripresa per la TV, e quindi ci sarà un pomeriggio di ricordo e di dedica con gli artisti di Leo, a partire, insomma, curato da Enzo e Stefano, che da quando sono arrivati a Bologna hanno lavorato con De Bernardinis dal loro arrivo a Bologna. Invece ufficialmente quando si parte? 2023, come si parte? 2023 partiamo questo sabato con un appuntamento dedicato alla giornata della memoria, La chiave di Sara, un format tratto dal format Lo schermo sull'Egio, ideato e curato da Ivano Marescotti. Interpreterà questo appuntamento Serena Balivo, della Piccola Compagnia d'Ammacco. La storia è quella, appunto, La chiave di Sara, la storia del rastrellamento del Veldiv. In questo formato, Lo schermo sull'Egio, Marescotti ha mescolato immagini di film con brani del romanzo, quindi ricostruendo una drammaturgia che attraversa appunto tutti i linguaggi, entrambi i linguaggi, quello della letteratura e quello del cinema. Sarà a Castelmaggiore, al Teatro Biagi d'Antona. Grazie per adesso, perché non è finita. Allora, siccome collaboravi già anche prima con Agorà, Sì, dalla prima edizione ho seguito l'organizzazione e anche poi quella... Hai avuto un upgrade, come si dice adesso. Se vuoi definirlo così, diciamo. Ma per fortuna l'upgrade è sostenuto appunto dagli sguardi di cui parlavo prima, quindi, perché Agorà è una stagione molto tenace. Certo. Ha l'agilità appunto perché la squadra non è una squadra enorme, quindi questo ci dà agilità. Però appunto il gruppo di lavoro si è allargato, per quanto appunto è tutto in divenire, quindi si scoprirà a mano. E poi diciamo che il sostegno dei comuni è sempre stato importante, c'è la possibilità di toccare punti, di organizzare cose che non sono scontate. Ed è bellissimo scoprirlo anche assieme a Radio Città Fujiko. Io, Alessandro, ti ringrazio tantissimo per queste anticipazioni, ti auguro una buona stagione, una buona giornata, a presto. Grazie, a presto.